Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Parigi, accoltellamento vicino alla ex sede di Charlie Hebdo, 4 feriti, 2 uomini in fuga. Emergenza Covid, l'OMS riconosce l'Italia, primo paese occidentale colpito, ha saputo contrastare l'epidemia grazie alla scienza. Premi a chi utilizza i pagamenti digitali, il governo pensa a un rimborso del 10% per le transazioni con moneta elettronica. Voli venduti e poi cancellati causa Covid, l'antitrust apre un'istruttoria su 4 compagnie aeree. Stadi riaperti al 25% del pubblico, chiedono le regioni, ma il governo è contrario, conferma il sottosegretario Zampa. Radio 24, oggi si riunisce il CTS. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con una ultima ora arrivata poco fa. A Parigi è in corso un intervento della polizia, secondo quanto riportano i giornali francesi un individuo ha accoltellato e ferito 4 persone, l'uomo sarebbe scappato in metropolitana, ma sarebbero 2 le persone ricercate dalla polizia. L'episodio è avvenuto non lontano dalla ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo, dove nel 2015, lo ricorderete, erano state uccise 12 persone durante un attacco terroristico. Appena avremo degli altri particolari su questa vicenda, naturalmente ve li daremo. Adesso il riconoscimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nei confronti dell'Italia, primo paese occidentale, ha detto l'OMS ad essere pesantemente colpito dal Covid, la comunità e il governo hanno saputo reagire ribaltando la traiettoria dell'epidemia. E invece è record di contagi ancora in Gran Bretagna e in Francia, dove non si esclude un nuovo lockdown. In Brasile è stato cancellato il carnevale che avrebbe dovuto svolgersi a gennaio del 2021. Galoppa l'infezione da coronavirus in Israele, che ha contato nell'ultima giornata oltre 7.500 nuovi casi, un record che arriva proprio nel giorno di entrata in vigore del lockdown rafforzato deciso dal premier Netanyahu. La durata sarà di quasi 3 settimane in coincidenza con le feste ebraiche. Venendo in Europa e in Germania i nuovi contagi superano i 2.100, col ministro della salute Spahn che sconsiglia ai tedeschi viaggi nell'Unione Europea. Quasi 3.000 casi in Repubblica Ceca, oltre 400 in Slovacchia, ma il vero problema lo registra la Francia con oltre 16.000 nuove infezioni giornaliere e la guerra aperta tra Parigi e Marsiglia dopo i divieti imposti nel sud del paese. Proprio a Marsiglia centinaia di ristoratori hanno manifestato contro la chiusura da domani di bar e ristoranti. In Brasile fa notizia l'annullamento del prossimo Carnevale di Rio, edizione 2021 prevista a febbraio, rinviata a tempo indeterminato. In India, epicentro asiatico, 86.000 nuovi casi con oltre 1.000 vittime. Infine, da segnalare le lodi dell'OMS all'Italia, è stato il primo paese occidentale ad essere pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità hanno reagito con forza, hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza, ha scritto online Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora veniamo all'Italia, la situazione del contagio in Italia, risultato positivo anche Raffaele Fitto, recentemente sconfitto da Michele Emiliano nella corsa per la presidenza della regione Puglia, sentiamo. La strada è ancora lunga, restiamo con i piedi per terra, non dobbiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti finora. È il tweet del ministro della salute Roberto Speranza, che invita a non abbassare la guardia nonostante gli elogi internazionali all'operato dell'Italia, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati altri 1.786 casi con 23 decessi. Ed è positivo al Covid, ma asintomatico, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, candidato sconfitto di centrodestra alla presidenza della regione Puglia. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook. Le regioni più colpite intanto stringono le maglie della prevenzione e in Campania parte l'obbligo della mascherina all'aperto, mentre il Lazio valuta l'ipotesi se il trend di casi dovesse peggiorare. Obbligo da oggi anche nel centro storico di Genova e al Porto Antico, così come a Foggia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso siamo alla pagina politica, Movimento 5 Stelle alle prese con il post regionale ancora affrontato ieri in un'assemblea piuttosto infuocata dei parlamentari. Intanto trapelano i contenuti del piano del governo per incentivare i pagamenti digitali con premi per chi li utilizzerà. Il nodo 5 Stelle è sempre più al centro dell'agenda di governo, soprattutto adesso che il PD è in pressing su legge elettorale, riforme e MES. Ma le riforme istituzionali, incluso il superamento del bicameralismo paritario, sono un tema che divide. I Dem chiedono una Camera che legiferi, un Senato che possa semplicemente analizzare le leggi, più la sfiducia costruttiva. Prima però la legge elettorale, con il proporzionale che mette d'accordo PD e 5 Stelle, almeno sulla soglia di sbarramento al 5%, troppo alta invece per Italia Viva e l'EU. Il proporzionale però vede l'avversione della Lega, in primis di Giancarlo Giorgetti: sarà un disastro per l'Italia, dove occorrono governi stabili. Allora, dice Giorgetti, meglio eleggere un'assemblea costituente, quella sì con il proporzionale, come nel 1946. Una discussione difficile con i 5 Stelle dopo l'assemblea turbolenta di ieri, con la strada ancora da tracciare per eleggere il nuovo leader, probabilmente un gruppo di reggenti fino agli stati generali. Intanto però il PD avverte: i soldi del MES ci servono per la sanità e il premier Giuseppe Conte cerca di mediare. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Tra le misure già varate dal governo, la cassa integrazione per gli artigiani, che però arranca tra grandi ritardi, ci sono persone che aspettano ancora il mese di maggio, si parla di oltre 400.000 tra artigiani e piccoli imprenditori. La situazione è drammatica, avvertono le associazioni di categoria. Sentiamo. Gli ultimi dati relativamente all'FSBA, quindi al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato, danno 8.000 lavoratori che ancora attendono l'assegno per il mese di maggio. Noi abbiamo stimato circa in 3 milioni e mezzo di euro per chiudere il pagamento ovviamente di queste prestazioni. La situazione descritta da Silvano Barbalace, segretario regionale di Confartigianato Calabria, è la stessa che troviamo in tutto il paese. In totale sono circa 400.000 gli artigiani che da maggio non ricevono i soldi della cassa integrazione. La situazione è drammatica, dice Michele Francesco Abballe dell'Unione Artigiani Italiani. Le pratiche sono state elaborate subito, quindi le regioni hanno risposto molto bene. Siccome poi i controlli erano demandati all'INPS, l'INPS comunque ha avuto dei forti rallentamenti, secondo me purtroppo per mole di lavoro enorme. Lei consideri che c'è stato un incremento del 988% delle casse integrazione presentate rispetto all'anno 2019. Sono 400.000 artigiani e quindi lavoratori che non hanno ancora ricevuto i pagamenti, e purtroppo questo è un problema. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso ci colleghiamo con Parigi, perché c'è un aggiornamento per quanto riguarda la notizia con cui abbiamo aperto: l'accoltellamento, l'aggressione avvenuta nella capitale francese, tra l'altro nei pressi della ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo. 4 sarebbero i feriti, ma c'è un arresto. È questa la notizia. Danilo Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno, sì, un uomo con delle macchie di sangue sui vestiti è stato fermato poco lontano dal luogo dove si è svolto l'attacco, esattamente davanti all'Opéra di Bastiglia, nell'undicesima arrondissement di Parigi. E secondo quanto riportano fonti citate dai media francesi, ci sarebbe un secondo uomo, un complice di nazionalità indo-pakistana, che sarebbe attualmente in fuga e, secondo alcuni testimoni, si sarebbe rifugiato nella metropolitana di Parigi. E intanto le forze dell'ordine hanno blindato il quartiere e la mairie del comune dell'undicesima arrondissement ha annunciato che sono state chiuse scuole, asili e residenze per anziani. Sono state chiuse anche tutti gli esercizi commerciali della zona. Grazie Danilo Ceccarelli, e vedremo se nel corso di Effetto Giorno ci saranno degli ulteriori aggiornamenti, un chiarimento di quanto è accaduto e se l'uomo arrestato è effettivamente responsabile di questo accoltellamento. Adesso rientriamo in Italia con la cronaca, perché ci sono sviluppi del caso Suarez, il calciatore uruguaiano per il quale la Juventus si era adoperata per ottenere la cittadinanza con un esame di lingua italiana per poterlo poi tesserare, cosa che non è avvenuta. Ma si è parlato del fatto se i dirigenti della società fossero effettivamente coinvolti o meno nell'inchiesta, non sono indagati al momento, ma oggi, e la notizia è questa, i legali della Juventus sono stati ascoltati in procura a Perugia. sono ascoltati come persone informate sui fatti l'avvocato Luigi Chiappero, storico legale della Juventus, e la collega Maria Turco. In mattinata i due si sono presentati in procura a Perugia per rispondere ai PM che indagano sull'esame di italiano svolto da Luis Suarez all'Università per Stranieri del capoluogo umbro, un esame truccato secondo gli inquirenti che serviva al calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza italiana. La Turco è l'avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell'Ateneo, Simone Olivieri, uno degli indagati. Chiappero invece ha assistito ad una delle telefonate tra la collega e lo stesso Olivieri. Dalle indagini intanto emerge che il primo a muoversi per l'esame di Suarez sarebbe stato Federico Cherubini, vice del direttore sportivo juventino Fabio Paratici. Cherubini, umbro, chiamò una sua vecchia conoscenza, il rettore dell'Università Statale di Perugia, Maurizio Oliviero, che lo indirizzò all'Università per Stranieri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Voli aerei venduti e subito dopo cancellati causa Covid, ma senza che fossero nel frattempo cambiate le regole per volare. Per questa ipotesi di violazione del mercato, l'autorità antitrust ha avviato 4 procedimenti istruttori nei confronti di altrettante compagnie aeree. Nel mirino dell'antitrust tornano ancora le compagnie aeree che a ridosso dell'emergenza Covid hanno venduto biglietti aerei salvo poi cancellare i voli pur in assenza di restrizione ai viaggi. L'autorità avvia 4 procedimenti istruttori e altrettanti subprocedimenti cautelari nei confronti di Blu Panorama, EasyJet, Ryanair e Vueling. A luglio scorso lo stesso era accaduto per Alitalia e Volotea. In base a un crescente numero di segnalazioni da parte dei consumatori, i voli sarebbero stati programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi, precisa l'antitrust. In particolare, le compagnie aeree, adducendo come motivo della cancellazione l'emergenza per la pandemia, avrebbero offerto ai consumatori solo il voucher e non il rimborso del prezzo del biglietto già pagato, impossibile violazione dei diritti dei passeggeri previsti dal regolamento CE 261 del 2004. Inoltre, le compagnie aeree non hanno informato i consumatori sui diritti loro spettanti in caso di cancellazione e viene contestato un servizio di assistenza oneroso e carente, sia per i tempi di attesa, sia per le modalità di contatto per i passeggeri, costretti a utilizzare esclusivamente un numero telefonico a sovrapprezzo difficilmente raggiungibile. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il dibattito sulla riapertura degli stadi. Il governo è contrario alla riapertura fino al 25% del pubblico sugli spalti, che è una proposta che arriva dalle regioni, lo ha confermato oggi ai microfoni di Radio 24 la sottosegretaria Zampa. Noi siamo contrari. Il ministro ha ieri ribadito che prima ci sono le scuole, ci sono altre priorità e poi eventualmente ci occuperemo degli stadi. Oggi si riunisce il CTS con una risposta definitiva su questa proposta. Per quanto riguarda il calcio giocato, domani torna il campionato Torino-Atalanta, Inter-Fiorentina, poi domenica Roma-Juventus. Nel fine settimana si corre anche domenica il Gran Premio di Formula 1 a Sochi. Ne parleremo più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso facciamo un piccolo break, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie e ripartiremo da un primo bilancio che possiamo fare per queste prime due settimane di scuole riaperte. Cercheremo di capire com'è andata. 349-238-6666. A tra poco. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Parigi, fermato un uomo per l'accoltellamento vicino alla ex sede di Charlie Hebdo, 4 i feriti. Emergenza Covid, l'OMS riconosce l'Italia, primo paese occidentale colpito, ha saputo contrastare l'epidemia. Raffaele Fitto positivo al Covid, cresce il contagio intanto in Gran Bretagna e Francia che non esclude un nuovo lockdown. Stadi riaperti al 25% del pubblico, chiedono le regioni, ma il governo è contrario. Oggi si riunisce il CTS. Scuola, bilancio in chiaroscuro per le prime 2 settimane. Solo 70 gli istituti che si sono dovuti fermare, ma mancano ancora 2,5 milioni di banchi. Ne parliamo tra poco. E allora, oggi che è venerdì 25, proviamo a fare un bilancio delle prime 2 settimane di scuole riaperte. Lo facciamo con Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore, che ne scrive proprio oggi. Ciao Marzio, buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Allora, ci sarebbero, a quanto tu ci racconti oggi, già 400 circa scuole colpite da casi, fortunatamente però non tutte, anzi solo una quota di queste, ha dovuto poi però fermarsi, ha dovuto chiudere. Cosa possiamo dire fino a questo punto? Sì, è che diciamo che probabilmente era inevitabile, si moltiplicano le segnalazioni di casi, queste oltre 400 scuole coinvolte hanno avuto almeno un caso positivo tra gli studenti e docenti che ha comportato come conseguenza molto spesso la quarantena della classe. In casi più ridotti, 75, gli istituti sono stati chiusi per qualche giorno, spesso per fare delle sanificazioni. Come dicevo, era inevitabile e probabilmente ci dovremo abituare con a questo, certo. Senti Marzio, quanto incide questo numero, insomma, proprio per dare anche una misura, no, dell'efficienza? Parliamo solo di 2 settimane, però insomma tutto sommato cominciamo ad avere dei numeri in mano. Sul totale delle scuole, degli istituti scolastici, diciamo, su che ordine di percentuale del totale siamo? Beh, ancora abbastanza limitato, devi sapere che in Italia si contano oltre 8.000 scuole per 30.000 plessi, quindi diciamo il fenomeno è ancora abbastanza ridotto, anche perché queste 400 scuole molto probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi hanno avuto un solo caso positivo. Okay. Quindi meno dell'1%, insomma approssimativamente qualcosa meno dell'1%. Sì. E tra l'altro, ecco, l'altra questione che si apre è che in questa stagione, soprattutto per i genitori preoccupati per i figli a scuola, anche il fatto che a casa spesso ci saranno casi di possibile influenza o comunque di sindrome influenzali simili al Covid, quindi si pone anche il problema delle diagnosi, no? Certo, di come distinguere un normale raffreddore da invece qualcos'altro. Esatto, e lì diciamo il percorso è abbastanza definito, il genitore deve chiamare il pediatra, il medico di famiglia, che nel 99% dei casi, questo lo scrivo oggi sul giornale, prescriveranno un tampone. E diciamo i pediatri stimano che nella stagione più calda, da ottobre, novembre, quando appunto convivremo anche con le sindrome influenzali, ogni pediatra ne prescriverà almeno 5 al giorno. Già in questo periodo mi hanno raccontato che ne stanno prescrivendo i primi. Questo significa che in Italia abbiamo 8.000 pediatri circa, che serviranno almeno 1 milione di tamponi al mese. Ecco, questa è l'altra questione. Speriamo di essere comunque pronti dal punto di vista organizzativo. Il numero dei tamponi, lo abbiamo ripetuto tante volte, è salito tanto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Speriamo di poter far fronte anche a questo. Un'ultima cosa che ti voglio chiedere per tentare di chiudere un primo bilancio su queste prime 2 settimane di scuola, Marzio, è la questione dei banchi, no? Dei banchi scolastici, perché ne mancano ancora all'appello, abbiamo letto di cifre, dovevano arrivare comunque entro le prime settimane di scuola, c'è ancora un po' di tempo prima delle scadenze previste, però di qualche ritardo abbiamo già raccontato, quanti ne mancano ancora? Diciamo una percentuale precisa non c'è, però il commissario Arcuri ha chiesto tempo fino a ottobre. E da quello che abbiamo registrato in oltre metà scuole più o meno sono stati organizzati nuovi banchi, nelle altre restanti scuole diciamo se la sono cavati da sole con i vecchi banchi o con soluzioni precarie, quindi ancora qualche settimana, ma ci sono diverse scuole in ritardo. Grazie a Marzio Bartoloni. E allora parliamo ancora di scuola, con una piccola storia positiva di auto-organizzazione, ma anche di senso di responsabilità, direi. Lo specifico, come spesso facciamo al venerdì, che cerchiamo anche di raccontare delle buone notizie, qualcosa che fila liscio una volta ogni tanto, non per negare le difficoltà, naturalmente, le carenze, l'abbiamo appena fatto con Marzio, il nostro collega del Sole 24 Ore, le responsabilità anche su quello che non va in questa ripartenza dell'anno scolastico, ma perché invece la capacità di cogliere le situazioni difficili e rovesciarle in situazioni positive, sfruttare al meglio, trasformare un handicap in una opportunità è un qualche cosa che credo dovremmo fare tutti sempre, no? nella vita, e chi riesce a farlo ci illumina col suo esempio senza usare troppa retorica. Professoressa Patrizia Smacchia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Lei è dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Santa Maria della Versa, siamo in provincia di Pavia. Voi avete fatto questa scelta, scuola all'aperto, per naturalmente anche andare incontro alle necessità che ci sono quest'anno di aumentare la rarefazione tra i ragazzi all'interno della scuola, però anche come un progetto, anche come una scelta di valore didattica. Ci racconta come avete maturato, poi ci spiega anche bene questa decisione? Sì, allora noi la decisione è maturata così, in maniera molto semplice. Per noi è venuta naturale, abbiamo pensato di essere in un contesto territoriale decisamente favorevole, in mezzo alle colline, con tante scuole e tanti bambini che avevano la necessità di essere, diciamo, di riallacciare un rapporto sia con i compagni che con tutta la comunità, con tutto il territorio. Sì. E praticamente abbiamo detto, ma guardiamoci attorno, la scuola non è solo all'interno delle aule, questo l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre capito, non è una novità e non abbiamo bisogno di imitare modelli da nessuna parte. Abbiamo cercato se avevamo delle risorse, abbiamo fatto dei patti, diciamo, con anche le amministrazioni che ci sono venute incontro, con le associazioni, c'è stato un dialogo costante e siamo riusciti a trovare delle soluzioni, ma siamo solo all'inizio, in modo da garantire una didattica che non sia solo outdoor, ovviamente, però la maggior parte del tempo, se possiamo, lo passiamo con esperienze di scuola all'aperto, anche in tenso strutture che ci garantiscono la continuità di un percorso anche in caso di pioggia. Questo ovviamente siamo solo all'inizio, lo dico, siamo cauti, noi siamo ottimisti ma siamo cauti, anche perché purtroppo lo scenario che abbiamo di fronte, anche con il trend epidemiologico, non lo conosciamo nessuno. Noi cerchiamo di far fronte ai protocolli di sicurezza, certo, che abbiamo attuato, pensiamo che all'aperto si rarefà la possibilità, come lei ha appunto detto, ma soprattutto noi vediamo felici i nostri bambini. Ecco, come hanno accolto invece la notizia ai genitori di questa scelta, che può sembrare romantica, può sembrare affascinante, però poi magari uno deve fare conti col fatto che il proprio figlio, no? Sappiamo che spesso i genitori sono iperprotettivi, oddio, sta all'aperto. Com'è andata con i genitori? Guardi, allora, sono 15 giorni, ancora è presto per fare qualsiasi bilancio, però la partenza è entusiasta, perché innanzitutto anche i genitori in qualche modo vanno educati nell'approccio con la scuola. La scuola deve essere e deve essere considerata un luogo dove si fanno esperienze, per cui quando si fanno esperienze ci si sporcano le mani, e su questo non ci sono mai dubbi. È un imparare facendo, è una scuola attiva, e i genitori per ora sono contenti, quindi da questo lo posso dire. Per ora sono contenti. Ecco, ci ricorda anche invece proprio dal punto di vista pratico come vi siete organizzati? Lei un po' ce l'ha già raccontato, siete una scuola che già si trova in una zona rurale, in qualche modo avete vicino l'aperta campagna e noi avete sfruttato questa cosa. Noi siamo nelle colline dell'Oltrepò, ecco. Noi siamo nelle colline dell'Oltrepò tra i vigneti, sono dei panorami splendidi, abbiamo dei parchi bellissimi messi a disposizione dalle associazioni, e adesso in particolare siamo partiti con l'associazione degli autieri che ci ha dato proprio il parco, un parco attrezzato, e che quindi noi possiamo fare passeggiate nel bosco, organizzare didattica anche all'interno dei vari dei boschi, però abbiamo proprio dei parchi vicino alla scuola che ci consentono quindi di non utilizzare i mezzi di trasporto, i pulmini, che in qualche modo andrebbero contro quelli che sono i protocolli di anticontagio, e i bambini facendo una passeggiata raggiungono queste aule senza muri. La nostra si chiama appunto il progetto di scuola senza muri, e sono due i plessi che sono partiti. Adesso vediamo, noi ne abbiamo parliamo sei. Comunque di un numero grande di studenti, qualcuno potrebbe pensare a una piccola scuola, poche decine di studenti, invece sono migliaio di studenti coinvolti. Sì, noi abbiamo numeri, abbiamo classi normali, con classi anche da 24, 25, nella scuola secondaria ne abbiamo diverse anche da 28, 27, insomma. Va bene. Io la ringrazio, professoressa Patrizia Smacchia, dirigente della Statale Santa Maria della Versa in provincia di Pavia. Insomma, Per alcuni poteva essere un sogno, per altri magari un mezzo incubo fare scuola all'aperto, però queste qui ci sono riusciti, hanno dimostrato che si può fare effettivamente e lo stanno facendo. Adesso vogliamo raccontarvi, in chiusura di questa prima parte, seconda parte di Effetto Giorno, lo stato di avanzamento della strada italiana verso la lotta al Covid. Parliamo di una terapia agli anticorpi monoclonali che sta per approdare alla sperimentazione sulle persone, dopo essere stata già verificata in vitro, sta per essere sperimentata a dicembre sulle persone, per diventare a marzo una terapia. Ne avevamo già parlato, oggi vi raccontiamo con Rosanna Magnano quali sono gli avanzamenti, e lo fa per noi Riccardo Baccheschi, che è uno dei gli amministratori delegati di una delle aziende farmaceutiche che sono coinvolte, sono alcune italiane, in questa cordata. È un prodotto che nasce dalla ricerca, interamente dalla ricerca italiana, la ricerca del dottor Mappuoli, uno dei più grandi esperti di vaccini del mondo, che lavora incidentalmente adesso sull'anticorpo monoclonale qui assieme. L'anticorpo monoclonale è un terapeutico, è un prodotto che si estrae dal sangue dei convalescenti, che quindi hanno avuto la malattia e sono in via di guarigione, viene selezionato nel sangue appunto attraverso lo studio l'estrazione, la selezione delle cellule che lo producono, e attraverso queste cellule poi viene selezionato il candidato migliore che è adatto per neutralizzare il virus, ed infine viene poi clonato, portato su scala industriale e riprodotto in quantità sufficiente per una produzione di massa. È una speranza importante perché, al contrario dei vaccini, richiede tempi di sviluppo e di prove cliniche più rapidi, quindi diciamo è più facile immaginarsi un anticorpo monoclonale che arrivi sul mercato con una certa, con un certo livello di qualità, piuttosto del vaccino in tempi rapidi. La ricerca è pressoché conclusa, adesso si tratta di raffinare più che altro lo sviluppo industriale di questo prodotto, e questo serve per andare appunto in clinica. I tempi sono molto rapidi, lo sviluppo è esattamente alla metà del suo percorso, dovrebbe arrivare a conclusione per il mese di dicembre, quando cominceremo la clinica, e infine il prodotto dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine di marzo. Va bene, vi aggiorneremo naturalmente sugli sviluppi di questa terapia che si basa sugli anticorpi delle persone guarite da coronavirus, gli anticorpi monoclonali. 13:29, facciamo un break, torniamo subito dopo con un sondaggio di YouGov che riguarda il lavoro da casa. Quali sono le nostre aspettative, aspirazioni, quali sono le decisioni delle aziende di qui alla fine dell'anno? 349-238-6666, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Parigi, fermato un uomo per l'accoltellamento vicino alla ex sede di Charlie Hebdo, 4 i feriti. Emergenza Covid, l'OMS riconosce l'Italia primo paese occidentale colpito, ha saputo contrastare l'epidemia. Cresce intanto il contagio in Gran Bretagna e Francia, Parigi non esclude un nuovo lockdown. Premia chi utilizza i pagamenti digitali, il governo pensa a un rimborso del 10% per le transazioni elettroniche. Lavoro da casa, il 25% dei dipendenti non sa se rientrerà in ufficio entro la fine dell'anno. La metà vorrebbe proseguire lo smart working, lo rivela un sondaggio di YouGov, ne parliamo tra poco. minuti. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666. A proposito della dell'informazione sulla scuola e dell'intervista col collega che ha fatto un bilancio su quante scuole in queste prime due settimane sono state hanno avuto casi di Covid, hanno dovuto fermarsi, 400 casi e 70 scuole chiuse, chiede un ascoltatore. Quali sono le fonti di questa notizia? Posso chiedere? Giustissimo chiedere quali sono le fonti di questa notizia. Le fonti sono, non lo abbiamo specificato, è un portale in realtà messo su da uno giovane ricercatore, uno studente universitario, che insieme hanno monitorato tutti i dati e li hanno, diciamo, accorpati in un portale di cui non ho il nome in questo momento. Era quello che scriveva oggi Marzio Bartoloni sul Sole 24 Ore. A Adesso, come anticipato, parliamo di lavoro da casa e lo facciamo con Danila Massara di YouGov. Buongiorno Danila. Buongiorno. Benvenuta. YouGov è una società di analisi internazionale di mercato e di sondaggi, insomma, che ogni tanto collabora con noi e ci racconta diciamo, i sondaggi che vengono fatti. Questa volta siamo su una base nazionale, parliamo degli italiani, parliamo dello smart working e la prima cosa che avete chiesto, Danila, è erano le intenzioni, queste domande sono state fatte qualche tempo fa, ad agosto, esatto. Su come si pensavano le persone che sarebbero rientrate, quanto, in che tempi si sarebbe tornati in ufficio dopo il lavoro da casa. Cosa abbiamo risposto? Allora, abbiamo intervistato le persone che non hanno smesso di lavorare da casa a partire dall'inizio del lockdown, quindi da marzo. E innanzitutto i lavoratori che ancora lavoravano da casa ad agosto, era circa il 13% delle persone. Queste persone abbiamo scoperto che hanno in programma di tornare a lavorare sul posto di lavoro, che sia ufficio o altro luogo, ma le modalità sono diverse. Diciamo che su chi ancora lavorava da casa ad agosto, il 42% prevedeva di tornare fisicamente in ufficio a partire da settembre, quindi presumiamo che lo abbiano fatto durante questo mese, il 32% invece entro la fine dell'anno e il 12% dall'anno prossimo, quindi dal 2021. I rimanenti invece ancora non lo sanno, non hanno un programma. Quindi c'è una quota, insomma, non indifferente di lavoratori che qualche giorno fa ancora non sapevano, per quello che gli avevano indicato i loro datori di lavoro, le loro aziende, insomma, se sarebbero rientrati entro la fine dell'anno o da gennaio, oppure se, come si comincia a raccontare, potrebbero in qualche modo rientrare in quella quota di lavoratori che continueranno a fare smart working. Però ci sono delle condizioni, avete testato anche questo, che vengono richieste dalle persone per poter tornare in ufficio serenamente. Esatto, sebbene buona parte dei lavoratori si senta sicura all'idea di tornare in ufficio, parliamo del 46% di persone, molti però vogliono che alcune condizioni vengano rispettate affinché ci si senta tranquilli sul posto di lavoro. La principale richiesta è che le norme igieniche vengano rispettate, quindi abbiamo un 74% di persone che ha questa richiesta, o il rispetto di distanze di sicurezza 65, o il fatto che gli spazi di lavoro vengano igienizzati in modo approfondito. Insomma, sembrano richieste abbastanza, devo dire, anche abbastanza ragionevoli. C'è un punto particolare, importante, credo, che avete testato e che riguarda la disponibilità a farsi testare, test sierologici e tamponi, perché si è detto molto in queste settimane il fatto che, insomma, gli italiani, credo non solo gli italiani, sarebbero un po', in alcuni casi poco propensi, perché si teme poi di essere bloccati, no? In attesa dei risultati, o insomma se c'è una positività ma di fronte a un caso di asintomaticità dove uno non teme per sé, però l'idea di rimanere bloccati mette paura. E invece la risposta che avete avuto voi è un po' il contrario, no? È vero, sì, infatti la quasi totalità dei lavoratori, che siano dipendenti oppure autonomi, quindi il 91% dei lavoratori sarebbe favorevole a sottoporsi a un sierologico oppure a un tampone che venga offerto dall'azienda prima di entrare in ufficio o comunque sul luogo di lavoro. Quindi questo mi sembra anche una notizia da un certo punto di vista, cioè questa cosa che ci siamo un po' raccontati, che abbiamo sentito dire, di questo timore di fare test in questo momento, in questa fase, stando almeno alle persone che avete testato voi, non è così, c'è invece disponibilità. E c'è un'altra parte di questa ricerca che avete fatto, che riguarda il cosiddetto south working, cioè il fatto di cui si è molto parlato, che durante il lockdown molti lavoratori delle zone del nord, delle città del nord, dove si concentrano tante attività, tanti uffici, sarebbero tornati a lavorare nelle loro, diciamo, terre d'origine, per esempio al sud. Che cosa racconta, anche qui tra vulgata e realtà, la vostra indagine? Sì, diciamo che è vero che le persone hanno approfittato di questo momento in cui era possibile lavorare in modo slegato dall'ufficio per lavorare da un luogo diverso anche da quello della propria abitazione personale, quindi dal luogo in cui si è trascorso ad esempio il lockdown. Infatti vediamo che quest'anno, nel 2020, il 37% delle persone che hanno un lavoro che può essere svolto in smart working lo ha fatto in un luogo diverso dalla propria abitazione o dalla propria regione, rispetto ad esempio al 17% nel 2019. Però se andiamo a vedere dove sono andate queste persone, sì, vediamo che forse non possiamo davvero parlare di start working, perché è vero che lo spostamento c'è stato, però la maggior parte delle persone è rimasta nella propria area geografica, quindi non andando molto lontano. Mentre le persone che sono andate al sud, i dipendenti, i lavoratori che sono andati al sud sono circa soltanto l'8%, e principalmente dal centro il 5%, oppure dal nord il 3%. Io ti ringrazio, Daniela Massara di YouGov, grazie per essere stata con noi, per averci raccontato questo sondaggio interessante sul insomma, un po' tutte le varie aspetti che riguardano il lavoro da casa. Adesso 13:22. Sentiamo Zampa, Sandra Zampa, velocemente sulla questione della riapertura degli stadi. Noi siamo contrari. Il ministro ha ieri ribadito che prima ci sono le scuole, ci sono altre priorità e poi eventualmente ci occuperemo degli stadi. Carlo Genta, allora il governo è contrario a riaprire gli stadi, eh? Sì, no, io continuo a non capire la contrapposizione tra gli stadi e le scuole, ma comunque contrario a riaprire gli stadi. Ieri sera si è giocata Supercoppa Europea, pur tra qualche polemica perché i tedeschi non erano così convinti, però di fronte a 15.000 persone che sono in un grande stadio nuovo, poche, ma pur sempre un indizio e un inizio di normalità. Chiaro che questo è uno dei temi del giorno, credo sia una battaglia grosso modo politica e che quindi riguarda lo sport lateralmente, ma neanche tanto, perché incomincia anche il campionato di basket, ad esempio. Poi avremo il presidente della Lega Basket, Gandini, in tutti i convocati, e l'urgenza di comunque avere una minima e sicura presenza di pubblico nei palazzetti è stringente, ancora più che nel calcio, per motivi economici. Quindi questi sono dei temi, altri temi arrivano dal campo e dai campi, e perché torna la Serie A domani, perché domenica c'è una super partita, esatto, Dzeko contro quello che poteva essere il suo futuro, la sua squadra. E poi c'è il Milan che ieri ha passato senza Ibrahimovic, come notizia di ieri, positivo al Covid. Anche lui ha passato il secondo turno preliminare di Europa League. Ora resta al Milan una partita per accedere al tabellone principale il 1° di ottobre. Quindi questi sono alcuni dei molti temi che questo weekend, con la Formula 1, il Moto Mondiale, il Mondiale di ciclismo, di cui poi parleremo ad Imola. Certo, importante anche questo, tutto materiale per voi. Riempiono un weekend di sport adesso. Grazie Carlo, appuntamento naturalmente dopo il GR delle 14. Noi facciamo un piccolo break e poi torniamo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.